lascia che sia tutto così. E il vento volava sul tuo foulard, avevi già preso con te le mani del sere, la tua allegria. Non tagliare i tuoi capelli mai, mangia un po' di più che sei tutto sa. E sul tavolo fra il tè e lo scontri ingoiavo pure questo addio. Lascia che sia tutto così, e il cielo sbiadiva dietro le gru. No, non cambiare mai, e abbi cura di te, della tua vita, del mondo che troverai. Cerca di non metterti nei guai, abbottonati il palto per bene, e fra i clacson delle auto e dei campani ripetevo non ce l'ho con te, e non darti pena sai per me. Mentre il fiato si faceva fumo, mi sembrava di crollare piano piano, e tu piano piano andavi via. Chissà se prima o poi, se tu avrai compreso mai, se ti sei voltata indietro. Che son solo, e se adesso suono le canzoni, quelle stesse che tu amavi tanto, lei si siede accanto a me, sorride e pensa che le abbia dedicate a lei, e non sa di quando ti dicevo mangia un po' di più che sei tutto sano, sa. E chissà